Capitolo secondo. Combré, da lontano, a un raggio di 10 leghe, vista dal treno quando ci andavamo l'ultima settimana prima di Pasqua, era soltanto una chiesa che riassumeva la città, la rappresentava, parlava di lei e per lei in lontananza, e quando ci avvicinavamo, teneva strette intorno al suo ampio mantello scuro in piena campagna, contro vento, come una pastora le sue pecore, il dorso lanoso e grigio delle case raggruppate, che un resto di bastioni medievali cingeva qua e là di un tratto perfettamente circolare, come le mura di una piccola città nel dipinto di un primitivo. Per abitarci, Combré era un po' triste, come le sue strade, dove le case costruite con la pietra nerastra del luogo, precedute all'esterno da gradini, incappucciate da frontoni che proiettavano la loro ombra sul davanti, erano così scure che non appena la luce del giorno cominciava a declinare, occorreva spalancare le tende nelle sale. Strade dai severi nomi di santi, molti dei quali erano stati signori di Combré: Rue Saint-Hilaire, Rue Saint-Jacques, dove era la casa della zia, Rue Saint-Hildegarde, su cui dava il cancello, e Rue di Saint-Esprit, su cui si apriva la porticina laterale del giardino. E quelle strade di Combré esistono in una zona della mia memoria così remota, dipinta a colori così diversi da quelli che ora rivestono il mondo per me, che in verità mi appaiono tutte, insieme alla chiesa che le dominava sulla piazza, più irreali ancora delle proiezioni della lanterna magica. E in certi momenti mi sembra che poter attraversare ancora Rue Saint-Hilaire, poter affittare una camera in Rue de l'Oiseau, nella vecchia trattoria dell'Oiseau Fléché, che dalle finestre dello scantinato emanava un odore di cucina che mi arriva ancora a tratti, non meno intermittente e caldo, significherebbe entrare in contatto con un al di là più meravigliosamente soprannaturale che non fare la conoscenza di Golo o parlare con Geneviève de Brabant. La cugina del nonno, la mia prozia, di cui eravamo ospiti, era la madre di quella zia Léonie che dopo la morte del marito, lo zio Octave, non aveva voluto più lasciare prima Combré, poi a Combré la sua casa, poi la sua camera e quindi il suo letto, e non ne discendeva più, sempre distesa in un vago stato di malessere, di prostrazione fisica, di malattia, di idea fissa e di devozione. Il suo appartamento personale dava su Rue Saint-Jacques, che sbucava, molto più in là, sul Grand Pré, in contrapposizione al Petit Pré, verdeggiante al centro della città, all'incrocio di 3 strade, e che, monotona, grigiastra, con i 3 alti gradini di arenaria davanti quasi ad ogni porta, sembrava una sfilata di immagini gotiche scolpite da uno scultore nella stessa pietra in cui avrebbe scolpito un presepe o un calvario. La zia abitava ormai di fatto solo 2 stanze adiacenti, trattenendosi il pomeriggio in una delle 2 mentre si arieggiava l'altra. Erano di quelle stanze di provincia che, come in certi paesi, dove intere zone dell'aria o del mare sono illuminate o profumate da miriadi di protozoi che non vediamo, ci incantano con i 1000 profumi che vi diffondono le virtù, la saggezza, le abitudini, tutta una vita segreta, invisibile, sovrabbondante e morale, che l'atmosfera vi tiene sospesa. Odori pur sempre naturali, certo, i colori del tempo, come quelli della campagna vicina, ma già casalinghi, umani e stantii, gelatina squisita, elaborata e limpida di tutti i frutti dell'anno che hanno lasciato il frutteto per la dispensa. Odori stagionali, ma che sanno di mobili e di casa, mitigano l'asprezza della brina con la dolcezza del pane caldo, oziosi e puntuali come un orologio di paese, oziosi e puntigliosi, incuranti e previdenti, lindi, mattutini, devoti, radiosi di una pace che reca solo un sovrappiù di ansia e di prosaicità, che funge da grande riserva di poesia a colui che l'attraversa senza averci mai vissuto. L'aria vi era satura della quintessenza di un silenzio così nutritivo, così succulento, che io mi ci addentravo con una sorta di golosità, soprattutto in quelle prime mattine ancora fredde della settimana di Pasqua, in cui lo assaporavo meglio perché ero appena arrivato a Combray. Prima che potessi entrare dalla zia per augurarle il buongiorno, mi facevano aspettare un momento nell'altra stanza, dove il sole, ancora invernale, era venuto a mettersi al caldo davanti al fuoco, già acceso fra i due mattoni, e che spandeva in tutta la stanza un odore di fuliggine, facendone l'equivalente di quei grandi camini di campagna o di quelle cappe di camino dei castelli, sotto le quali ci si augura che fuori si scateni la pioggia, la neve o addirittura qualche catastrofe diluviale, per aggiungere al conforto del riparo la poesia dell'interno invernale. Facevo qualche passo dall'inginocchiatoio alle poltrone di velluto arabescato, sempre ricoperte di un poggiatesta all'uncinetto, e il fuoco, cuocendo come una pasta gli appetitosi odori di cui l'aria della stanza era rappresa, già lavorati e fatti lievitare dalla freschezza umida e soleggiata del mattino, li tirava a sfoglia, li dorava, li increspava, li gonfiava, facendone un invisibile e palpabile dolce provinciale, un immenso calzone ripieno, dove io, appena assaporati gli aromi più croccanti, più fini, più celebrati, ma anche più secchi, dell'armadio muro, del comò, della carta a fiorami, tornavo sempre con inconfessata avidità a invischiarmi nell'odore intermedio, appiccicoso, insipido, indigesto e fruttato del copriletto a fiori. Nella stanza vicina sentivo la zia chiacchierare da sola a voce bassa. Parlava sempre sottovoce. Credeva d'avere in testa qualcosa di rotto e di fluttuante, che parlando troppo forte temeva di mandare fuori posto. Ma anche se era sola, non restava mai a lungo senza dire qualcosa, perché credeva le facesse bene alla gola e che, impedendo al sangue di ristagnarvi, potesse rendere meno frequenti le crisi di affanno e le angosce di cui soffriva. Inoltre, nell'inerzia assoluta in cui viveva, dava un'importanza esagerata a tutte le minime sensazioni, le dotava di una motilità che le rendeva difficile tenerle per sé, e in mancanza di un confidente a cui comunicarle, le annunciava a se stessa in un perpetuo monologo che era la sua unica forma di attività. Sfortunatamente, avendo preso l'abitudine di pensare a voce alta, non sempre si accertava che nella stanza accanto non ci fosse qualcuno, e spesso la sentivo dire «Bisogna che tenga bene a mente che non ho dormito». Quella di non dormire mai, infatti, era la sua grande pretesa, e tutti e noi ne recavamo nel nostro linguaggio una rispettosa traccia. Il mattino Françoise non andava a svegliarla, ma entrava da lei. Quando la zia voleva fare un sonnellino durante la giornata, si diceva che voleva riflettere o riposare, e quando, chiacchierando, le capitava di dimenticarsene, al punto di dire «quello che mi ha svegliato», oppure «ho sognato che...» arrossiva e si riprendeva immediatamente. Di lì a un attimo entravo a darle un bacio. Françoise metteva in infusione il suo tè, oppure, se la zia si sentiva agitata, invece del tè le chiedeva una tisana, ed ero io incaricato di lasciar cadere dal sacchetto della farmacia, in un piatto, la quantità di tiglio da versare nell'acqua bollente. Gli steli, seccandosi, s'erano incurvati in un capriccioso intreccio, nei cui interstizi si aprivano i pallidi fiori, come se un pittore li avesse disposti e fatti posare nella maniera più decorativa. Le foglie, perduto o cambiate il loro aspetto, somigliavano alle cose più disparate, a un'ala trasparente di mosca, al rovescio bianco di un'etichetta, a un petalo di rosa, ma ammucchiate, frantumate o intrecciate, come nella costruzione di un nido. Mille piccoli particolari inutili, deliziosa prodigalità del farmacista, che in una preparazione industriale sarebbero stati soppressi, mi procuravano, come un libro in cui ci si meraviglia di trovare il nome di una persona che si conosce, il piacere di constatare che erano proprio steli di veri tigli, come quelli che vedevo in Avenue de la Gare, modificati appunto perché non erano copie, ma loro stessi invecchiati. Ed essendo ogni carattere nuovo nient'altro che la metamorfosi di un carattere antico, Riconoscevo nelle piccole palline grigie le gemme verdi che non erano giunte a maturazione, ma soprattutto il bagliore rosato, lunare e dolce che metteva in risalto i fiori nella fragile foresta degli steli, dove erano sospesi come delle roselline d'oro, segno come l'impronta chiara che rivela ancora su un muro la traccia di un affresco cancellato, della differenza fra le parti dell'albero che erano state colorate e quelle che non lo erano state, mi mostrava che quei petali erano proprio gli stessi che prima di infiorare il sacchetto di farmacia avevano sparso il loro profumo nelle sere di primavera. Quella fiamma rosa di cera era ancora il loro colore, ma a metà spento e assopito in quella vita diminuita che era adesso la loro e che è come il crepuscolo dei fiori. Fra poco la zia avrebbe potuto inzuppare nell'infusione bollente di cui assaporava il gusto di foglia morta o di fiore appassito una piccola madeleine e me ne avrebbe offerto un pezzetto quando fosse stato sufficientemente ammorbidito. Di fianco al suo letto c'era un grande comò giallo in legno di cedro e un tavolo che faceva pensare al tempo stesso a un tavolo da farmacia e all'altar maggiore, dove sotto la statuetta della Vergine e una bottiglia d'acqua di Vichy Celestin c'erano libri da messa e ricette mediche, tutto l'occorrente per seguire dal letto le pratiche religiose e il suo regime, per non lasciar passare né l'ora della pepsina né quella dei vespri. Dall'altro lato il letto era messo per il lungo accanto alla finestra. Lei aveva la strada sotto gli occhi e vi leggeva dal mattino alla sera, per non annoiarsi, alla maniera dei principi persiani, la cronaca quotidiana ma immemorabile di Combré, che poi commentava con Françoise. Non ero rimasto con la zia più di 5 minuti, che già mi mandava via per timore che la stancassi. Porgeva alle mie labbra la sua fronte triste, pallida e slavata, sulla quale a quell'ora del mattino non aveva ancora sistemati i posticci, e dove le vertebre trasparivano come le punte di una corona di spine o i grani di un rosario, e mi diceva: «Su, povero bambino mio, vattene, va a prepararti per la messa, e se vedi Françoise di sotto, dille di non stare troppo a gingellarsi con voi, che salga presto a vedere se ho bisogno di qualcosa». Françoise, in effetti, che era da anni al suo servizio e mai avrebbe immaginato allora che sarebbe entrata un giorno direttamente al nostro, trascurava un po' la zia nei mesi in cui eravamo suoi ospiti. C'era stato un tempo nella mia infanzia, prima che andassimo a Combré, quando la zia Léonie passava ancora l'inverno a Parigi dalla madre. Un tempo in cui conoscevo così poco Françoise che il primo dell'anno, prima di entrare in casa della prozia, la mamma mi metteva in mano una moneta da 5 franchi e mi diceva: «Mi raccomando, sta attento soprattutto a non sbagliare persona. Prima di dargliela, aspetta che io dica buongiorno Françoise e intanto ti toccherò il braccio». Appena giunti nella buia anticamera della zia, scorgevamo nell'ombra, sotto le pieghettature della cuffia di un bianco abbagliante, rigida e fragile come fosse di zucchero filato, le onde concentriche di un sorriso di gratitudine anticipata. Era Françoise, immobile e ritta nel riquadro della porticina del corridoio, come la statua di una santa nella sua nicchia. Quando ci si era un po' abituati a quelle tenebre da cappella, le si distingueva sul viso l'amore disinteressato per l'umanità, il commosso rispetto per le classi alte, esaltato nelle regioni più nobili del suo cuore dalla speranza delle mance. La mamma mi stringeva il braccio con forza e diceva a voce alta: «Buongiorno, Françoise». A quel segnale le mie dita si aprivano e lasciavo cadere la moneta che trovava ad accoglierla, una mano impacciata ma tesa. Ma da quando andavamo a Combré non conoscevo nessuno meglio di Françoise. Eravamo i suoi preferiti. Aveva per noi, almeno nei primi anni, oltre alla stessa considerazione che aveva per la zia, un piacere più vivo, perché aggiungevamo al prestigio di far parte della famiglia. Lei aveva il rispetto di un greco per i legami invisibili che la consanguineità crea tra i membri di una famiglia, il fascino di non essere i suoi padroni abituali. Con quale gioia dunque ci riceveva, commiserandoci che non avessimo trovato un tempo migliore, il giorno del nostro arrivo, la vigilia di Pasqua, in cui spesso tirava un vento gelido, quando la mamma le chiedeva notizie della figlia e dei nipoti, se il nipotino era bravo e che cosa avevano in mente di fare di lui, se somigliava alla nonna. E quando non c'era più nessuno, la mamma, sapendo che Françoise piangeva ancora i suoi genitori morti da diversi anni, le parlava di loro con dolcezza, le chiedeva mille particolari su com'era stata la loro vita. Aveva intuito che Françoise non amava il genero e che questi le guastava il piacere di stare con la figlia, con cui non riusciva a conversare liberamente quando c'era lui. Così, quando Françoise li andava a trovare, a qualche lega da Combray, la mamma le diceva sorridendo: «Non è vero, Françoise, che se Julien si è dovuto assentare e voi avrete Marguerite tutta per voi per l'intera giornata? Ne siete desolata, ma ve ne farete una ragione?» E Françoise replicava ridendo: «Madame capisce tutto, Madame è peggio dei raggi X!» Diceva X con artificiosa difficoltà e un sorriso per prendere in giro se stessa, ignorante che usava un termine così dotto, che si sono fatti venire per Madame Octave e che vedono quello che avete nel cuore. E spariva, imbarazzata che ci si occupasse di lei o forse perché non la vedessimo piangere. La mamma era la prima persona che le dava quella dolce emozione di sentire che la sua vita, le sue gioie, i suoi dolori di contadina potevano presentare qualche interesse, essere un motivo di gioia o di tristezza per qualcun altro da lei. La zia si rassegnava a privarsi un po' di lei durante il nostro soggiorno, sapendo quanto la mamma apprezzasse il servizio di quella domestica così intelligente e attiva, sempre in ordine alle 5 del mattino, sia nella sua cucina, sotto la cuffia la cui pieghettatura impeccabile e rigida pareva di ceramica, sia quando si recava alla messa cantata, che faceva tutto alla perfezione, lavorando come un cavallo, che stesse in salute oppure no, ma senza strepiti, con l'aria di non far niente. La sola delle domestiche della zia che quando la mamma le chiedeva dell'acqua calda o del caffè nero, glieli portasse veramente bollenti. Era una di quelle persone di servizio che in una casa sono al tempo stesso quelle che sulle prime piacciono meno a un estraneo. Forse perché non si prendono la briga di tentare di sedurlo né di dedicargli un'attenzione particolare, sapendo bene di non averne alcun bisogno, perché si smetterebbe prima di ricevere l'estraneo piuttosto che licenziare loro. Ma invece sono quelle a cui i padroni tengono di più, perché ne hanno sperimentato le reali capacità e sono indifferenti a quella gentilezza superficiale, a quel chiacchiericcio servile che impressiona favorevolmente un ospite, ma nasconde spesso una incorreggibile nullità. Quando Françoise, dopo aver badato che i miei avessero tutto il necessario, saliva una prima volta dalla zia per darle la sua pepsina e chiederle cosa volesse per pranzo, era molto raro che non dovesse già dare il suo parere o fornire spiegazioni su qualche importante avvenimento. «Pensate, Françoise, Madame Goupil è passata con più di un quarto d'ora di ritardo per andare a prendere la sorella. Ah, non mi stupirebbe, per poco che si attardi per strada, che arrivasse in chiesa dopo l'elevazione». «Già, non ci sarebbe da stupirsi», rispondeva Françoise. «Françoise, se foste arrivata 5 minuti fa, avreste visto passare Madame Humbert con degli asparagi grossi il doppio di quelli di Madame Calon. Vedete di sapere dalla sua domestica dove li ha trovati. Visto che quest'anno ci servite asparagi in tutte le salse, potevate prendere di quelli per i nostri viaggiatori». «Oh, non ci sarebbe da stupirsi che venissero dall'orto del curato», diceva Françoise. «Oh, ma figuriamoci, mia povera Françoise», rispondeva la zia alzando le spalle. «Oh, dal curato! Lo sapete che non riesce a tirar su altro che dei miseri asparagi striminziti da nulla? Quelli erano grossi come un braccio, vi dico, non come il vostro, ma come il mio povero braccio, che si è smagrito ancora di più quest'anno. Françoise, cos'è? Non avete sentito quello scampanio che m'ha rintronato la testa?» «No, Madame Octave». «Oh, poverina, dovete avere una testa ben dura. Potete ringraziare il buon Dio. Era la Maghelon, è venuta a cercare il dottor Piperot. È uscito subito con lei, hanno svoltato per Rue de l'Oiseau. Ci sarà qualche bambino malato». «Oh, mio Dio», sospirava Françoise, che non poteva sentir parlare di una disgrazia capitata a uno sconosciuto anche nella parte più remota del mondo senza cominciare a piagnucolare. «Françoise, ma allora Perché hanno suonato la campana a morto? Oh mio Dio, sarà per Madame Rousseau. Ma guarda, avevo già dimenticato che se n'è andata l'altra notte. Ah, e ora che il buon Dio mi chiami, non so più che ne è della mia testa dopo la morte del mio povero Octave. Ma vi faccio perdere tempo, figlia mia. No, Madame Octave, il mio tempo non è così prezioso. Chi l'ha fatto non ce l'ha venduto. No, vado solo a vedere che il fuoco non si spenga. Così Françoise e la zia vagliavano insieme nel corso di quella seduta mattutina i primi avvenimenti del giorno. Ma a volte quegli avvenimenti rivestivano un carattere così misterioso e così grave che la zia sentiva di non poter aspettare il momento in cui Françoise sarebbe salita. E quattro formidabili colpi di campanello risuonavano per la casa. «Ma, Madame Octave, non è ancora l'ora della pepsina?» diceva Françoise. «Forse vi sentite addosso un po' di debolezza?» «Ma no, Françoise», replicava la zia. «Cioè sì, sapete che ormai i momenti in cui non mi sento debole sono molto rari. Un giorno me ne andrò come Madame Rousseau, senza aver avuto il tempo di accorgermene. Ma non ho suonato per questo. Mi credereste se vi dico che ho appena visto, così come vedo voi, Madame Goupil con una ragazzina che non conosco affatto? Su, andate a prendere due soldi di sale da Camus. Ah, ben difficile che Théodore non sappia dirvi chi è. Ma sarà la figlia di Monsieur Pipin», diceva Françoise, che preferiva attenersi a una spiegazione immediata, essendo già stata due volte da Camus quella mattina. «La figlia di Monsieur Pipin? Oh, ma cosa dite, mia povera Françoise? E vi pare che non l'avrei riconosciuta?» «Ma non dico la grande, Madame Octave, voglio dire la piccola, quella che è in collegio a Jouy. Mi pare proprio d'averla vista stamattina». «Ah, a meno che non sia così», diceva la zia, «che sia venuta per le feste. Eh già, può darsi. Beh, in questo caso non c'è bisogno di altre indagini, se sarà venuta per le feste. Ma allora, con molta probabilità, vedremo tra poco Madame Sazerat venire a suonare dalla sorella per il pranzo. Eh già, infatti ho visto il garzone di Galopin passare con una torta. Vedrete che la torta sarà stata per Madame Goupil. Dal momento che Madame Goupil la visite, Madame Octave, non tarderete a vedere tutti i suoi rientrare per il pranzo. Perché ormai comincia a non essere più tanto presto», diceva Françoise, alla quale, nella fretta di scendere per occuparsi del pranzo, non dispiaceva lasciare la zia con questa prospettiva di distrazione. «Ah, non prima di mezzogiorno», rispondeva la zia in tono rassegnato, gettando un'occhiata inquieta ma furtiva alla pendola per non lasciar vedere che lei, pur avendo rinunciato a tutto, trovava non di meno nello scoprire che Madame Goupil aveva gente a pranzo un piacere così vivo e che purtroppo si sarebbe fatto attendere ancora più di un'ora. «E per giunta questo accadrà mentre sto pranzando», aggiunse tra sé a mezza voce. Il suo pranzo era per lei una distrazione sufficiente per non augurarsene un'altra nello stesso tempo. «Non dimenticatevi almeno di portarmi le uova alla crema in un piatto, non in una fondina». I piatti erano i soli a essere decorati con figure, e ad ogni pasto la zia si divertiva a leggere la storia di quello che le veniva servito quel giorno. Inforcava gli occhiali, decifrava: «Ali Baba e i 40 ladroni, Aladino o la lampada magica», e diceva sorridendo: «Benissimo, benissimo». «Io ci sarei andata volentieri da Camus», diceva Françoise, vedendo che ormai la zia non ce l'avrebbe più mandata. «Ma no, non vale la pena, e certamente Mademoiselle Pipin. Povera Françoise, mi dispiace di avervi fatto salire per niente». Ma la zia sapeva perfettamente che non era per niente che aveva chiamato Françoise, perché a Combray una persona che non si conosceva era un essere altrettanto poco credibile di un dio della mitologia. E infatti, a memoria d'uomo, non era mai successo che ogni volta che in Rue de Saint-Esprit o sulla piazza si era verificata una di quelle stupefacenti apparizioni, ricerche ben condotte non avessero finito per ridurre il favoloso personaggio alle proporzioni di una persona che si conosceva, o personalmente o in astratto, nel suo stato civile, per avere un certo grado di parentela con qualche abitante di Combray. Era il figlio di Madame Sotton, reduce dal servizio militare, era la nipote dell'abate Perdreau, che usciva dal convento, era il fratello del curato, esattore a Châteaudun, appena andato in pensione o venuto a trascorrere le feste. Vedendoli si era provata l'emozione di credere che a Combray ci fossero persone che non si conoscevano, semplicemente perché non le si aveva riconosciute o identificate subito. Eppure già da un pezzo Madame Sotton e il curato avevano preannunciato che erano in attesa dei loro viaggiatori. Quando la sera, rientrando, salivo dalla zia per raccontarle la nostra passeggiata, se avevo l'imprudenza di dirle che vicino al Pont Vieux avevamo incontrato un uomo che il nonno non conosceva, un uomo che il nonno non conosceva? Esclamava lei. Oh, figuriamoci! Non di meno, un po' scossa da quella notizia, voleva vederci chiaro e il nonno veniva convocato. Allora, chi è zio che avete incontrato nei paraggi del Pont Vieux? Un uomo che non conoscevate? «Ma no», rispondeva il nonno, «era Prosper, il fratello del giardiniere di Madame Bouilleboeuf». «Ah, ma volevo ben dire», diceva la zia tranquillizzata e un po' congestionata, e alzando le spalle con un sorriso ironico aggiungeva, «e lui mi diceva che avevate incontrato un uomo che non conoscevate affatto». E allora mi raccomandavano di essere più cauto un'altra volta e di non agitare così la zia con parole avventate. Si conoscevano talmente bene tutti quanti a Combray, animali e persone, che se per caso la zia aveva visto passare un cane che non conosceva, non smetteva di pensarci su e dedicava a quell'incomprensibile avvenimento tutte le sue capacità induttive e le sue ore libere. «Ma sarà il cane di Madame Sazerat», diceva Françoise, senza molta convinzione, per rassicurarla e perché non stesse a rompersi la testa. «Ah, sì, già, come se non conoscessi il cane di Madame Sazerat», rispondeva la zia, il cui spirito critico non ammetteva un fatto tanto facilmente. «Ah, sarà il nuovo cane che Monsieur Galopin ha portato da Lisier». «Ah, sarà quello». «Pare che sia una bestia molto affabile», aggiungeva Françoise, che l'aveva saputo da Théodore. «Intelligente come un cristiano, sempre di buon umore, sempre affettuoso, sempre grazioso in qualche modo. È raro che una bestia così giovane sia già così galante. Madame Octave, bisogna che vi lasci. Non ho tempo di stare a divertirmi. Sono quasi le 10. Il fornello è ancora spento e ho ancora da pulire gli asparagi». «Ancora asparagi, Françoise, ma quest'anno avete la mania degli asparagi. Finirà che i nostri parigini non ne potranno più». «Ma no, Madame Octave, a loro piacciono tanto. Torneranno dalla chiesa affamati e vedrete che non si faranno pregare per mangiarli». «Ma in chiesa ci saranno già. Farete bene a non perdere tempo. Andate, andate a badare al vostro pranzo».